Gli occhi gonfi di uno che va a letto la notte tarda, la mattina presto va al lavoro, il culo se lo spacca. Odio, odio chi fa rapper, soldi e fama. Godo, se poi la polpa fama lo sbrana. So con lo sguardo fisso sul sequenza. Se parli di botte, finisci da papo come fa Spencer. Faccio il freelancer per esprimermi in quanto. Sto con i piedi a terra ma in alto come uno shadow. Tu parla, parla, parla. Se sul beat ti prendo a calcio è perché sono un ragazzo in gamba. Passi davanti, stai vestito come me. L'inizio a 13 anni, siamo grandi, siamo seri anno dopo anno. Il rap non ha cambiato la mia vita, ma continuerò a farlo. Ho il flow, ho un fatto posto per te. Ce ne ho un fino a quando ce n'è. Nei flow, ho un si parla sempre di me. Non so, non capisco perché. Perché? Se ti lascio parlare, sì, hai tutto da perdere, MC. I tuoi insulti sono a vorrendere rendere B. Stavi là, ma stai per retrocedere. Bevo le tue parole, visto che sono vuota a perdere. Ritorno dopo un tot di tempo, io no, mi perdo. Ma mi riprendo, faccio sempre, sempre. Ma stai attento, perché a tempo tengo. Questo tempo prendo il tuo passo. Tempo, perdi tempo, adesso, adesso prendi tempo. Per capire questo tempo che investi, questo tempo. Coglioni, ma sono tutti toys in un mondo di cartoni vuoti, come il cervello che usa per far rime, che poi non fa rima manco con il loro stile. Parlano di rap, vogliono entrare nel set, ma sono la propria parodia, proprio come Speedy Cash. Ho il flow, ho un fatto posto per te. Ce ne ho un fino a quando ce n'è. Nei flow, ho un si parla sempre di me. Rap ti amo, non c'è problema. Come cocciate se siamo insieme ci sarà un perché. E l'ho scoperto la prima sera, quando nessuno ci credeva. Ora chi screcciava suonava il piano e vecchi disco fanno scena. Ho il flow, ho un fatto posto per te. Ce ne ho un fino a quando ce n'è. Nei flow, ho un si parla sempre di me. Yeah.